debba essere. E io, ma aspetta, non mangiare il cane, così mi tocco come sei piedi, arrivo. Fai con tranquillità. Eccomi qua, BP3, com'è? Vabbè, ma coccondo. Marco. E allora, avvicinati o no? Io sono i 9. Io sono stato praticamente... Se non riesco a toccare, vabbè, non lo blocco il tasto. E, siccome non mi passa ancora questa... No, esofagite, l'altra, la tracheite, no? Che stava dando un po' qualche segno... Stavo diventando caldo, no? Come se avessi qualche lineetta di febbre, no? Sto rimanendo a letto ben coperto a fare la cura del caldo e del sonno pure, capito? Praticamente tutto il giorno mi svegliavo un po', mi giravo dall'altra parte e mi addormentavo, quindi la mattina e tutto il pomeriggio fino alle 5:30, capito? O le 5 più o meno, cioè, sto riprendendo le forze, dai. Poi oggi ho chiesto di mangiare prima perché alle 8 è... Cioè, dalle 8 a mezzanotte è troppo vicino, troppo. Quindi vorrei pranzare alle 6:30. Così, sai, 7, 8, 9, 10, 11, mezzanotte, insomma. C'è più differenza, più... è più spaziato, dai, il pranzo alla cena. Poi oggi abbiamo cavoli con le olive e con würstel, mi pare, o carne, capito? Tutto assieme, quelli sono veramente buoni. Ok, quindi fra mezz'oretta mangerò e poi rientro alla radio, capito? Sono tutto bene imbacuccato, calzettoni, guanti, perché sono sensibile al freddo, come sento il freddo quasi mi dà fastidio proprio alla pelle, capito? Potrebbe essere stato di striscio un po' di virus influenzale, ma di striscio mi, perché mi ha già preso la trachea altre volte, lo sai. Ed è il campanello d'allarme per un po' l'influenza. Adesso aspetto che passi, una volta passa del tutto questo coso, la trachea, posso ritenermi pronto a uscire, dai. Vabbè. Dai, dai. Ho detto, ti ho detto, uccio sempre, uccio, ok. Queste cose non curate poi, e succede come è successo a me, capito? Quindi, guarda che ho passato il pieno inferno, una settimana proprio bruttissima, bruttissima, bruttissima. E poi è tutto da verificare. Eia, sì, ma forse il freddo, non lo so. L'influenza d'altronde se la sono beccati un bel di italiani, non so quanti milioni di italiani. Mamma ha fatto il vaccino, mi pare, sì, lei ha fatto il vaccino perché è anziana, capito? Per sicurezza. Io non è che uscissi mezzo nudo, mi ero ben coperto con la giacca, certo sciarpa no, guanti no. Perché di notte, certe volte di sera, tardi fa, di sera fa freddo, giustamente. Poi oggi mi stranamente, la nuova non prevedeva pioggia, diceva solo nuvole, invece ha piovuto, ha fatto una bella piovuta. Verso le 4:30 può essere. Ciao Natali, ben entrato. Poi mi sto curando, Claudio, con aspirina e vitamina C, alternato aspirina e vitamina C, capito? Di solito uso sempre quello, siccome non abbiamo vivinci, no? Vivinci sono quelle pastiglione che si sciolgono nell'acqua, no? Ed è aspirina più vitamina C, siccome non ce l'ho tutto uguale, sto prendendo un po' l'uno e un po' l'altro, separati, capito? Così. Ciao Matteo, buonasera. Hai visto che non sta funzionando H29, come cacchio si chiama? Io mi sono dovuto spostare. H29 IA-8. No, a me non mi stava funzionando. Non c'avevo connessione, allora mi sono spostato su Genova. Su H29 via Cimeno 8, sta funzionando perfettamente. Vabbè, io ci ho fatto un po' di collegamenti in 20 metri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tutta roba qua vicino, giusto per far girare un po' la te, Corona, Lituania, Belgio, Croazia, tutta roba misera, roba per poveri, giusto qui per far vedere, per andare un po' la antenna in 20. Sì, caro Marco, no, non sottovalutare mai questi mal di gola, queste cose, capisco perché, io ti ripeto, ancora è tutto da verificare, però no, non sto bene. Una cosa trascurata è sempre una cosa che poi va a finire male, capito? Ripeti. Vabbè, non pinnacciare, dai. Non è detto niente. Poi sapendo che era un ascesso con pus, penso solo a infezione, non penso ad altro. Bene, cosa ti volevo dire? Vabbè, niente di che, insomma. Sono passato tutta giorno a dormire e al caldo, proprio con due coperte, bello immerso nel caldo, senza rischiare nulla. Perché francamente io non voglio stare a letto con influenza, mi rompe le palle, capito? Con la febbre, mi impedisce di uscire, preferisco prevenirlo, prenderlo all'inizio, capito? Prenderlo all'inizio che non pigliarlo poi quando hai l'influenza vera e propria. E poi non ho nessun difetto a deglutire, no, solo che viene questo leggero cosa alla trachea, capito? In basso, ai bronchi, perché l'influenza certe volte attacca le vie respiratorie, no? Capito? Attacca le vie respiratorie oppure attacca le vie intestinali, capito? Ti prende diarrea e quella roba lì. Invece a me no, diarrea mai. Ok. Poi, aspetta, cosa ti volevo chiedere, Claudio? Ascolta, se io dovessi farti provare l'857 a casa tua, tu ce l'hai un MD100 con l'attacco a 8 poli Yaesu, tipo presa dirette? Tipo presa dirette, ma quello crepato? No. Quello crepato? Crimpato, sì, ho capito, sì, con quella presa lì, 8 poli, tipo presa dirette, RG45, no? No, io ho l'MD100, l'MD200, tutte e due con connettore a 8, attacco Yaesu, perché sia per una radio che per l'altra hanno il connettore normale, capito? Quelle due PHF c'ho io, e quelli lì, quei quadri mandali hanno tutti quell'attacco. No Marco, manco l'adattatore c'ho, manco l'adattatore perché l'avevo praticamente dato, prestato, e poi invece doveva restituire e gliel'ho regalato, capito? Perché intanto io non ne avevo di radio così, e quindi gliel'ho regalato, non ce l'ho. Quindi posso fare solo la prova col microfono normale, con l'MD100 non posso fartelo sentire. Ho capito, no, peccato, sai perché? L'857 a manna laterale è sempre andato bene, no? Però da quando ho fatto la modifica del microfono per la M, ho cambiato una resistenza e un connessatore, in manna laterale introduce un lieve soffietto nella portante, capito? Un lieve soffietto tipo così, perché l'impedenza del microfono è stata, diciamo, alterata, e avrei voluto capire con altri microfoni se era tutto a posto, dai, perché l'ha fatto proprio subito dopo aver modificato il microfono, se no mi basta comprarlo nuovo, microfono, e venderlo col microfono nuovo, se proprio lo devo vendere, col suo originale, Ma col microfono normale? Ho capito, vai Marco. Guarda, io le ho provate tutte, ho mosso tutti i parametri, me li sono segnati originali, era una schifezza, L'unico modo per uscire bene era fare la modifica consigliata da un radioattore. Allora in AM esce passabile, è come una radio normale, capito? Ma prima era terrificante, non si poteva, non trovate in tutti i modi. Comunque io ho il microfono originale, quello senza i tasti, capito? C'è solo canali su, giù, microfono originale volgare, quello semplice. Quello con i tasti è bello, ma cosa me lo compro a fare se poi voglio vendere la radio? Usami di voce. Ah, quello è a condensatore, ha la capsula a condensatore, può darsi pure che sca bene. Quello è vero, è da provare, solo che cosa spendo? 60 euro se poi questo lo voglio vendere, quello l'857, non c'era Massimiliano un po' interessato, capito? Io ce l'ho sempre fermo nell'armadio, non lo sto più usando, non mi piace più ricevere nemmeno in HF, ma su fatto proprio. Ogni tanto lo uso in PMR, ma nemmeno più. Ahi mia. E vabbè, dai. Devo decidere cosa farne, perché un po' mi dispiace, ma alla fine cosa me lo tengo come soprammobile? A tenerlo a soprammobile sono soldi fermi. Ma la radio 557 è un bel quadro di banda, io non me ne farei niente di un quadro di banda, capito? Io ho le radio separate. Però quello sarebbe una bella cosa per metterlo in V&U e basta. Per me è solo V&U, ma anche in V&U io ho i due gemellini della ICO, quindi Marco, per me è comprarlo è una spesa inutile, capito? Non me ne faccio niente, però tieni conto che è una bellissima radio quella, Io ho capito, Natalia, ma io in macchina mi metto una futtenuta, come faccio attività in macchina, io ho capito, non c'ho né tempo né voglia, già ne porto poco a casa, anzi quasi nuda, ho nuda va meglio lì, però ti ripeto, l'ho vista in attività ed è una bella radio. Aspetta Eugenio, stanno parlando. Aspetta Natalia, aspetta Marco, dimmi Eugenio. Sì, Santiago 7 quasi Radio 5. Eia, Eugenio, quello è il camper. Sì, con il 48 con la modifica, però io ricevo acuto questo baracchino, però la radio è abbastanza cupa, i toni bassi. Infatti Eugenio, dagli un pochino di eco che amplifica di più. Caspita, adesso va molto meglio, si sente un pochino più di amplificazione, capito? Troppi bassi c'erano, ragione Marco. No, sempre cupo, sembra Giuseppe di Alghero. Cosa? Ciao Eugenio, ci sentiamo, già va bene, comunque non ti preoccupare. Avanti Natalia, cosa stavi dicendo? Ho capito. Marco se lo vorrebbe disfare. Marco, se lo vuoi vendere io te lo vendo, non è un problema vendere quella radio, Hai capito? Non è un problema vendere quella radio. Però non lo so, vedi tu. Vedi te. Eia. Sì, Massimiliano, a lui piaceva, gli ho detto che ci avrei pensato perché. Ma tanto non la uso più, non la uso nemmeno per ascoltare. Pensa che una volta me la portavo in macchina, con la staffa, senza microfono, avrei detto che era un ricevitore, capito? So che se trovi quello che se ne intende, mamma mia! Poi avevo lo stesso, il kit di separazione frontalino, tutto ciò. Però il microfono è quello originale, capito? Invece quello con i tasti ti permette di fare tutto, di cambiare banda, impostare la banda che vuoi, c'ha tutti i comandi frontali, capito? Molto bello. Però mi costa 50 spiccioli, tipo 57 più la spedizione, che me lo faccio fare? Ah, per il kit, per tutto il baravano. Non ti ho capito, il kit e il baravan, c'è tutto lì, c'è già il kit separazione frontalino, dato di serie. Beh certo c'è tutto, ciò che è bello, se lo conosco mi guarda che l'ho avuta, l'ho avuta con la radio, per pochissimo tempo l'ho avuta, capito? L'avevo presa proprio per provare, poi non l'ho comprata, praticamente chi la stava vendendo me l'ha data a provare, perché avevo dato il 7.05 K2G e volevo prendere quella, però poi non l'ho presa, ho preferito, avevo trovato prima il VHF 275H che mi aveva fatto comprare Walter da un amico radioamatore. E poi ho trovato il 475H, mi sono preso il 475H, c'è cioè due gemellini che non mi servono per fare attività, oddio, per fare attività è una parola grossa, per parlare in V e in U, capito, con le radio separate e basta. Una volta c'hai quelle due lì che sono sempre il top, nonostante siano abbastanza vecchiote, ma sono ancora oggi sempre il top delle V e delle U, perché tutti i radioamatori ci vanno, funzionano molto bene, hanno 100 watt, vanno veramente molto bene. E quindi quella lì non l'ho comprata, capito? Se no l'avrei avuta, però ti ripeto, pensaci, perché è una bella radio. È un po' rumorosetta, con antenne verticali da base, bisogna usare di poli, roba meno rumorosa. In macchina la ricezione è super, con la Prox e il Pro X1, mi ricordo l'avevo tarata a 7100, no, ho fatto le prove di taratura, e c'avevo 1.5 a 7050 e 1.5 a 7150, capito? 7100 era 1.1, era un bijou per ascoltare. Poi una volta mi hai detto tra noi, ho tarato l'antenna per i 45, c'era gente, ho fatto una chiamata dalla macchina, una singola chiamata, ero dove c'è Sandro, subito mi hanno risposto, avanti chi chiama? Ovviamente non ho ripreso perché lì non si può stare, però come ho chiamato mi hanno risposto subito. Aspetta, ti ripeto, io l'ho provata, l'ho tenuta circa un mese e mezzo, e ora sempre la caccia del secondo gemellino, poi quando ho trovato quello, ti ripeto, l'ho restituito, senza, me l'avevo data giusto per provare, mi ha detto se ti piace te la prendi, se no me la ritorni, senza impegno, quindi. Anche perché, ripeto, io cercavo la coppia del 275, capito? E basta, ripeto, è una bella radio, ce l'ho sempre accesa, funzionava bene, c'ha tutti i toni, c'ha tutto quello che serve, funziona anche bene in HF sicuramente. Non l'ho mai provata, ma ascoltavo anche in HF commutando un po' le antenne. Va bene, va bene. È una radio come un Natalino da macchina, dai, è un veicolare, a me, noi piacciono molto queste radio così, capito? Ok, tu Natalino avevi anche il 706, no? MK2G. Cosa devo guardare? Un messaggio? Aspetta che vado a prendere il cellulare, dai. E prendi il cellulare che ti mando un'ultima ora e clicca dove c'è il coso per aprire l'H... PTT, TTP, e guarda ogni incidente all'entrata di Scala di Cioc. No, c'era un incidente all'entrata di Scala di Cioc, adesso lo mando a Marco la foto. Non vedere. Qui l'ho poggiato sul baracchino perché prende di più. Ebbene, non si blocca sto tasto. L'ho appoggiato sul baracchino perché prende di più, vediamo. Milomi, sentito? Una già arrivata. E quella di Claudio è arrivata, come fa? Titi! Guarda, apri, leggi prima, ultima ora, poco fa, guarda. Leggi e poi apri, guarda per cosa tira. Esci Maria Gara. Ah! Aspetta. È entrata delle gallerie, adesso premo il collegamento, voglio vedere. Ogni adivine una, per carità, non ho visto ogni giorno macchine sbattute con le rocce, macchine capottate, gente che non sa guidare. Quando è bagnato si va piano, non gli entra in testa, no? Guarda, qui fai pigia, guarda nelle gallerie, c'è dove c'è entrata. Gesù! E io mi aspettavo una cosa vera, che quella è una bella galleria, mi dovevo entrare, io ci sarei entrato a macchina e tutto. E non hai visto, l'ha scavalcato, caro mio, c'è entrato a macchina e tutto. Anche a piedi ci sarei entrato in quella galleria. Questi colleghi bastardi, marimettono. Sì, sì, sì. Quando credo di vedere un incidente vero, invece. O quella di ieri che fuma, allucinante. Eia. Porta, come si chiama? La scatola porta munizioni NATO. Dovrebbe essere NATO. È una 80, sì. E poi di calibro 12. Ehi, sempre armi, solo armi mandi da lì. Manda qualcosa di pornografico, no? Oi, oi. Con tutta la roba che è nata lì non possiamo farci un piccolo esercito, mi. Ci facciamo l'esercito dei CB. Eia, eia. Vediamo, altri messaggi non ce ne sono, no? Ecco, no, no. Aspetta che Antonello Diussi ha cambiato la foto del... ha cambiato la foto del suo profilo. Dice a vedere se si carica. Oh, non ce la fa la connessione a caricarlo, eh? E c'è Tucco che punta la pistola, il film Il buono, il brutto e il cattivo, e Tucco che punta la pistola in faccia a Clint Eastwood, è una scena del film questa. E dove? Noi, diciamo, la Conte di Antonello Diussi, ha messo una foto nuova, no? Io lascio sempre il pipistrello, lui invece ogni tanto cambia foto, capito? Non ho capito, no, io c'ho sempre quella, ho aperto la radio fisso. No, tu hai messo una vignetta, hai messo una vignetta, aspetta che te lo dico, si vede un uomo con le cuffie in testa che ha la radio, il microfono davanti, e gli escono le bollicine dalla testa, come dire che è fuso, mi. E l'hai fotografato da un sito che si chiama www.letter, e poi non si vede l'indirizzo. Infatti un operatore fritto, un animatore fuso, capito? Ehi, mi è arrivata la pappa, mi. Oh, se non ci fosse mamma. Ok signori, dai che mi assento un attimo. Sentiamo fra 10 minuti, così da tempo di mangiare. Magna, già siamo qua, dopo Natalia rimango un attimo con Rix, così mi riposo la voce. Ce la siamo Genove Natalino. Ehi, quelle sono le stesse foto che mi hai mandato prima, mi. Non te ne ricordi, sono le stesse, sia quello col fucile in mano che quando tira il poligono. No, sono armi da collezione. Ah, Natalia, armi da collezione. Ah, sì. Pensa, 91-38, mi. Fucile della prima guerra mondiale. Anzi, no. 38, no, è... Dopo la guerra mondiale. Quasi maniere duri, butto, usciva vedendo la radio. Sto mangiando... cavoli e olive e würstel. No, la tedesca stai mangiandoci. Io sto per ciò kebab, sempre lì di Brigi, sempre tutta roba portata dal trabacco di mia figlia. E me? Molto, molto da lontano hanno sparato voi. Non ho capito. E vabbè, bisogna fare, se no guai. Bisogna andare, ci porto su belli tutti. Di navi un esempio. Eia. Ma non ci andiamo qualche giorno e porto anche la pistola. Andiamo. E che adesso sto facendo le fatture, capito? Non posso approfittarne. Il cavolo è mi. Poi l'aria oltre davanti esce da dietro, mi, col cavolo. Ma come è dietro, mi raggiura con la iatta? Madre di Dios. Natalì, mi stai mandando tutte le stesse foto che mi ha mandato prima. Io l'ho già vista quelle foto. Ma non ho capito, Natalì, cosa hai detto? E Mandroni, Mandroni esce a Federigosi, e tu, ma già esce prima o poi, dai. Già esce dal guscio. Vediamo un po' se c'è Gianfranco, sempre un agguato, sì. Gianfranco. Oh, come mai non c'è nemmeno gente in PMS oggi? C'è un deserto completo. Sì, sabato oggi. Saranno in campagna a qualche parte, fare qualche spuntino. Non lo so, no, ma qui io c'ho spento, non me ne facciamo da mai cosa fanno gli altri. Ho sentito poco fa che c'era questione sul 23 e basta. PMS me ne facciamo da mai. Ho sistemato da altre cose che mi interessavano, anche il PMR, ero disorientato senza sapere chi c'era nel resto del mondo, mi ha messo un po' a posto la parte che mi interessa, che sta iniziando il periodo bello adesso, marzo, aprile, iniziano la preparazione vera e propria, ci mettiamo a fare qualcosa. Proprio stamattina ho sentito in PMS, sì, un sito, forse era in macchina, parlava con un altro, non so dove stava andando, forse era a lavoro, a qualche parte, a pescare, comunque stamattina c'era gente a PMS, adesso ce l'ho spento, sì, che l'ho scelto, vediamo. Non si è acceso, infatti non c'è nessuno. Sul 23 sono. E Gio Maria già parla al baracchino, solo quando parliamo noi, fatti vuoi, non può stare, capito? C'è gente, tutte le scuse trova. Va bene, non fa niente. Ma lui fatti vuoi solo quando parla, quando... Adesso è sul 23, sta parlando, quindi ti vuoi non ne faccio. Ah, c'è parla Natali. Fatemi dire che non lo fa vedere più nessuno, lo fa vedere la giura, forse è meglio. Applauso. Ma ho capito, cosa hai detto Natali? Ma non ho capito cosa ti hanno detto perché non ho sentito. Ma Natali, ma non stanno vicini in radio? Se uno ha fatto uguale in un canale lo fa da tutte le parti. Non è che... Quindi chiudiamo il discorso. Hai capito? Io la penso in quella maniera, poi ti ripeto, non devo niente a nessuno, nessuno mi deve niente, ma cioè, dillo no, che vuoi farvi dare giù e basta, non capite a te. Non è quello il problema, ma se non fate voi, fate voi tre parti. Non è che non fate l'unese, non fate il 23. Andiamo qui, speaker, that question, un meter time, 17 ore fa un picco, why? Ah, ehi, dischi, c'è lì che è scritto tutto in inglese, poi alla fine, commento, grazie, ciao, interessante. Natali, detto in parole povere, lui fatti guai quando gli fa comodo, capito? Non alimentare Marco, lascia aperto. Ah, ok. Marco, non te ne affutti uno da noi. Noi continuiamo avanti per la nostra strada. Chi vuole entrare entra, chi non vuole entrare. Ci sono tanti canali, vanno per il padre e piace. Noi non disturbiamo nessuno, nessuno ci disturba. Come vedi, noi ci siamo sempre. È abbastanza popolato il canale qui. Le chiacchiere ce le facciamo sempre. Non ci provo a dare, mi metto una pasta asciutta, riguglionati. Oh, vediamo intanto se c'è Gianfranco. Attento Gianfranco, so che se lì rispondi, perché se no sono problemi tuoi. Vabbè, c'hai il pozzo, quindi non ti posso fare neanche danno. Ah, visto come ti ho toccato subito il pozzo, si è uscito, eh? Mi sono ricordato, dottore, che avessimo anche l'acqua, lo posso staccare, perché c'ha il pozzo Gianfranco. Ciao, buonasera, ben sentito. Beh, ha piovuto dalle parti tue. Sì, anche se ero fuori, sono rientrato adesso da un po' poco. Quindi, il di là non è affatto, ma è stato pochissimo. Aspettiamo, stavolta, se piove molto, possiamo correre parecchio, tutti ho un po' di braccio, va? Sì. Allora, c'è di vino a fiato. No, che professore di idee qua, un, sono 18.59 verso le 5 e mezza qualcosa, ha dato una bella passata l'acqua qua nelle alture di Carbonazzi, una bella passata l'acqua che ha fatto anche sicuramente bene, adesso non sta più piovendo e niente, va bene, vediamo se Natalino ti ha sentito, ti faccio salutare da lui, poi da Marco, avanti Natalino per Gianfranco. Ovviamente Natalino non riprende. Ciao Gianfranco, bene, ben entrato, dai. Ciao Marco, buonasera, c'è Natalino. Marco, non so come potresti essere utile. Pesci fuori, anche se sta piovendo, quindi con questo primo fuori, ti metti in collellino, poi anche qualche cosa in testa, ovviamente, tipo quelle degli indiani, no? E inizi a fare la danza, faccio vedere la danza dell'acqua, a vedere se mi fa vedere un po' di ripaglio, faccio fare un po' là. Il collaudo del pozzo, così è. Guarda, lo farei volentieri, ma sono leggermente incicciato. Non si sa se è una influenzina di striscio oppure cos'è. E, siccome ho mangiato adesso, no, a questo proposito, Andrea, prendermi la vitamina C. Riprendi, Claudio. Se vuoi tutto quella M io, maschio santo. Buonasera a tutti. Bella Gianni, vedi, la vitamina MS ti dammi, che ti fa meglio. Ciao Gian, buonasera, compagnia di Marco che è andato a prendere la vitamina C, poi c'è Gianfranco e Natalino, vai per chi vuoi. Buonasera a todos, avanti Natalino, puoi fai girare. Ho visto Salvatore stamattina Natalino, in negozio, cappa cappa. Vabbè, avanti Gianfranco. Sì, forse è la medicina che le hai proposto. Fate bene Gianni, buonasera. Io sto facendo cosa, facendo un po' di mese, quindi vi devo lasciare, non c'è più tempo. Però adesso rimango un attimo. Tutto qua. Il re di Claudio, se ci aveva detto. Va bene, ciao Gianfra, ogni tanto interviene, già siamo qua, giusto per scambiare le chiacchiere, adesso vediamo Marco che è andato a prendersi la sua posta, vediamo, vabbè già, un po' assente, tutto bene? Bene, un po' nervoso sono, dai, dico la verità, mi hanno cambiato il proprio l'orario, devo lavorare anche di sera adesso, insomma, mi si ammassone proprio stronza, scusando la frase, mi ha fatto incavolare, invece di darmi un po' di riguardo, le schiere, fa una manata di serve. Quello che conosco io? E tu che fai tu? Carità, che sei miserabile, mamma mia, non te lo posso vedere. A pensare che era una bravissima persona, eravamo a scuola assieme, amico di mio fratello. Boh. Allora già sei, fa ridurmi. Ma non passa così, adesso io lunedì c'è un medico del lavoro che deve fare la visita, glielo dico che io col piede così non ce la faccio andare anche di sera. Uno che è doppio spreco di benzina, tutto quanto insieme, no? Mi rompe le scatole. E poi ero già anni che lo stavo facendo, questo tutto, già due anni che facevo questo tutto. Dovremmo farmi continuare con questo tutto come ha fatto Gianni. Ciao Gianni, ma fammi capire, devi andare solo a sera o mattina e sera? Mattina e sera. Questi stanno facendo di tutto per farti scattarmi. No, non è così. Anche prima, anche quando c'era il principale, ogni tanto facevano così. E vabbè, no, ma non ti preoccupare che... Io mi auguro solo una cosa, di mandarsi la fattura più presto. Guarda, non ti abbiamo sentito né ieri, mi pare, né nell'altro ieri, ho detto sarà nero o troppo stanco, vai Claudio. Io cosa ti ho detto? Gianni, se non entra vuol dire che è pegnato lavoro. Ma lo immaginavo, sono veramente uno schifo, mamma mia, per carità di Dio, guarda. E infatti. Ho riguardato di tutto per la galle proprio in mezzo a Rigasini, no, già non gli avrei dato la soddisfazione, no, di andarmene, no, malattia d'orra, la faccia, poi ci licenziamo dentro. No, ma la malattia, io salgo sull'ufficio e glielo dico che non è possibile, perché uno che la spesa è doppia per me, per fare 2 ore e mezza una sera, per fare dalle 4:30 alle 6:30, la stiamo scherzando. Poi alle 6:30 entrate, perché così almeno mi accompagnate, almeno lunedì sicuramente lo farò, però poi vediamo. Oia, e se no non mi sono dei lavori vicini da fare, oia. Poi smantellando questa scampanatura di tiro, perché dobbiamo fare dei negozi a nuovo. Sto smantellando, facendo ferraglia, oia. Già, lo sai, io sono solidale con te. Io ho avuto un problema abbastanza serio, però l'azienda mi ha subito immediatamente, venuta incontro, ha mandato immediatamente un sostituto e non ha problemi, capito? Questi non capisco perché continuino ad accanirsi nei tuoi confronti, pur sapendo chi sei, cosa hai fatto per tutti questi anni e cosa hai dato. Se c'è un problema di fondo, per non capirlo, cazzo, non si può trattare la gente così, ma come si fa? Sì, ma non dipende tanto da loro, se da chi fai tutti, che dipende. Sono tra di noi, ciucciucci, sono 3 o 4, capelli rossi, questo e quell'altro, si passano parola e poi decidono, capito? E tu devi fare la pedina. Non ce la faccio, Claudio, già che la mattina ci vado a forza, ti ripeto, perché il piede è quello che mi fa male, eccetera. Andarci anche la sera adesso è pesante, è molto pesante, perché la sera mi riposavo, poi faccio tutte le analisi e la sera vado alle medicazioni, non rompo le scatole a nessuno, e mi hanno fatto tutte queste cose. Io adesso glielo dico anche al dottore del lavoro, così almeno lui provvederà a dirglielo. Sì, ma infatti fa intervenire a lui, in modo che si metta una pietra sopra questa cosa, perché se tu non ci puoi andare, non ci puoi andare, non puoi stare a tirare molla già, capito? E non dove va. Vabbè, avanti Marco. Ehi, scusate, mi sto un po' scaldando, che sono un po'... Bisogna star fermo, ci si raffredda un po', dai, fate girare. Ecco da te, c'è il fuoco. Noia, Marco. Ed ero un po' nervosetto questi giorni, non facciamo entrare, caro. Non vogliamo manco di accendere la farina, con la verità. Adesso un po' mi ha... Diciamo che ho parlato, un po' mi sono calmato, ma i giorni scorsi non ho dormito manco di notte, ci credo. Ma praticamente cosa stai facendo adesso? Che orario stai facendo già? Sì, da oggi ho fatto l'orario sino alle 2 e basta. Poi da lunedì devo fare dalle 8:30 alle 1:30, dalle 4:30 alle 6:30. Per 2 ore. Esatto, per 2 ore. Cosa che mi avevano tolto proprio per evitare, mi avevano anche parlato di capire cosa, perché anche per evitare fatti che consumano più benzina, eccetera, eccetera, farmi viaggiare e rischiare più volte invece che è anche un rischio, rimettersi in strada è un rischio serio. Infatti, cioè, se sono già stati presi degli accordi, sono già state fatte delle cose, perché uno deve poi praticamente rifare le cose da capo? Non capisco, vabbè. Ripistre, riprendi. Eia. Allora Gianni, stasera è entrato Eugenio dal camper con quella radio famosa, il 48 più il DM1000, e posso riscontrare che Cuppo, la sua voce non è la sua voce solita, squillante. Questo apparecchio riceve anche toni alti, eppure è Cuppo, io non lo sento bene, sembra, ripeto sempre per non tirarlo, sembra Giuseppe di Alghero. Avevi ragione tu, no? è cupo. E sai perché? Perché il modulatore del 48 è di cacca, come è di cacca il modulatore della Intech 548SX, capito? Sono modulatori da 2 lire, perciò escono cupi. Invece quando io metto il DM1000 sul 3009 è tutta un'altra cosa, ma perché esce limpido già il 3009, capito? Gamba. Sì, ma io ce l'avevo, se lo so sapere io che ce l'ha lui. Però te lo dico di quando mettevo il DM1000 con la 48 Plus. Ah, 48 Plus? E magari quello è fatto meglio. Uscivo bene con 48 Plus. Addirittura mia moglie usciva un po' squillante, perché io quando mi chiamava che tornavo da Alghero, da Porto Torres, mi diceva cosa faccio, comincio a mettere la pasta. La sentivo un po' squillante, per le donne è ancora meglio, però usciva bene anche con me. Sì, lui lo sentivo così, no. Gli altera la voce, dai. Quel livello era meglio mettere lo ZG su quel 48, era meglio mettere lo ZG, almeno sono occupo un po' del 48, più toni acuti dello ZG e bilanciava la cosa, capito? E vabbè, a volte basta lo ZG, quello che c'è, Luca l'aveva modificato, l'aveva messo un'altra capsula, mi ricordo, aveva fatto un microfono che poi aveva regalato a Roberto Quadrato, me lo ricordo ancora. E usciva un bel bene. Sì, dai, riprendete, forza, fate girare la ruota che arranca. Non ce n'è di ruota, siamo in tre. E Claudio sicuramente è occupato. Claudio. Qua sono, io sto facendo parlare a Marco e già, meglio che anch'io un po' riservirà. A me mi ha portato una cista dal retro tonsillare, cosa pensi? C'ho ancora i punti, mi già. E cosa ti hanno tolto la cista? Sì, un ascesso abbastanza grande, retro tonsillare, capito? Adesso il 24 c'è la visita di controllo, quindi non pensare che anch'io sia messo bene. E non lo mettiamo aperto qua? No, non ce n'è apertura, va dentro. Va dentro già. Tagliato e aspirato. Aperto e aspirato. Quindi c'era un ascesso confuso all'interno. E io. Ma tu eri sveglio o dormito? Sveglio purtroppo. Soliti cani, ti vogliono far soffrire apposta, lo stesso le unghie incarnite, varicocele, certe cose che fanno male, te le fanno da sveglio, in anestesia locale, però fa molto male. Mio cugino aveva fatto il varicocele e ha detto che ha sentito male lo stesso, nonostante l'anestesia, e lo stesso che ha fatto la unghia incarnita ha sentito dolore lo stesso, capito? Vabbè, che sai com'è, l'anestesia generale è sempre un po' impegnativa, devono sapere tutto, come reagisce l'organismo, se uno è allergico, se è allergico non si sveglia più. Ma mia com'è successo? Non lo sapeva di essere allergica, gli hanno fatto l'anestesia, per poco ci rimane. No, mi hanno fatto la puntura sotto il collo, come ti fa il dentista, e poi sono intervenuti. Ancora molto male, c'è un gonfio, anzi adesso sto iniziando a parlare bene, ma i primi giorni parlavo tutto. Adesso 24 c'ho l'altra visita, già comunque tutto da analizzare. Tutto da analizzare. E vabbè, dove l'ha fatta? Dottorino Legoiato. Ehi, a un policlinico, dottoressa Masia. E vabbè, comunque. Probabilmente è un'infezione, qualcosa che basta un'infezione e si forma il pus all'interno, va aspirato, perché certamente va aspirato, non è che ce l'ha solo, però e tra l'altro la dottoressa di andare in io già sono andato via dal lavoro perché non riuscivo, stavo affogando, non è grosso, mi stavo affogando, non riuscivo a deglutire, a respirare, mi mancava il respiro, parlavo con il foro, questo proprio non riuscivo neanche a aprire la bocca, capito? E sono andato via dal lavoro, anzi veramente mi stanno mandando. poi purtroppo avevo un turno molto importante di domenica mattina a copertura, avevo già dato un impegno a mio collega e l'avevo mandato a Cagliari perché c'era la madre che non stava bene. E quindi avevo fatto un cambio turno, questo è successo venerdì, perciò sabato ho riposato, venerdì sono andato via prima, sabato ho riposato, ho detto cazzo domenica come faccio, oramai ho questo impegno, non posso mettere nei casini mio collega, e quindi sono andato a lavorare, anche se ero già d'accordo con il mio responsabile che facevo il giro veloce e me ne andavo. Però era una giornata molto fredda, c'era freddo, e quindi ho preso ancora più freddo. Cazzo già, non ti dico. A mezzogiorno sono arrivato a casa, non riuscivo a respirare, non riuscivo a reclutire. Alle 5 e mezza sono andato alla guardia medica e mi ha dato un Lodimox. Però non mi sono fidato a prenderlo senza appunto consultare il mio medico, allora ho aspettato a lunedì mattina sono andato dal medico, come mi ha aperto la bocca, ma cosa è successo qua dentro? Assolutamente, immediatamente, subito, sto chiamando subito lo primo laringoiatra, che se si conoscevano, sto fissando l'appuntamento, vai subito al policlinico, insomma l'ho visitato immediatamente, ma hanno subito disintegrato perché non riuscivo a respirare, stavo rischiando di affogare, stavo pensando a dormire già a me, ti giuro, seduto nel divano, il televisore acceso, cioè tutta la notte così, ho passato due giorni d'inferno, domenica e lunedì, guarda, sì, diciamo più sabato e domenica che lunedì, perché poi lunedì mattina sono andato all'ospedale subito. Quando non sta bene non sta bene, c'è poco da fare. Io già adesso qualche cosa con questo piede, non vedo una soluzione, capito? Mi sta parlando anche male. Io infatti ti capisco perché io ti ripeto, la pigliaggia non l'ho mai avuta, è 40 anni che fumo, non è derivato dalla sigaretta perché come appunto diceva l'ottorino, mamma mia, come diceva l'ottorino, c'ho le corde vocali bene a posto, tutto, però ho fatto a poco le colloque eccetera, anche io non sono un grande fumatore, però fumo. Può essere un batterio che ho preso a lavoro, perché io sono molto negligente al lavoro, faccio il duro con gli altri, io me ne sbatto le balle, capito? Perché nell'impianto di depurazione non puoi fumare, non puoi non avere la mascherina secondo il trattamento reflu che stai facendo, a volte c'è l'autospurgo, io sto vicino, non era a firmare il buono, a chiacchierare, a fare, mi accendo una sigaretta, sono cose che non bisogna fare perché lì in quel contesto ci sono dei batteri che ti stanno intorno, non c'è niente da fare. Quindi secondo il professor Liu dice che la può essere più un batterio che è causato proprio dal lavoro che un'infezione dovuta a una tossilite, a una qualsiasi forma influenzale, capito? Questo è quello che ha detto lui. E perciò stiamo verificando se effettivamente è così. Devo stare molto più attento, ecco. E io che ho preso batteri non c'è da scherzare. Beh certo, se la faccia non è coperta dalla mascherina, respiri, a parte che ci sono dei gas che tu sei meglio di me, che dalle foglie, dalle cose salgono. Io lo so perché quando aprivamo quel tubino che c'era si allagava tutto il montacarichi perché si bloccava la pompa sommersa del tubino del condominio e praticamente si incrostava di detersivo e praticamente continuava a scendere l'acqua e andava e si allagava tutto il montacarichi sotto. Allora dovevi con la pompa sommersa togliere l'acqua reflua che entrava nei montacarichi e buttarla fuori, togliere la pompa sommersa del condominio, la schiava dai detersivi che c'erano intaccati sulla pompa, insomma, e tutte queste cose, sai quante avevo respirato? Io vi... Sì, ma io in tante fasi di lavoro non ho mai preso precauzioni, Gianni, e in questi ultimi periodi che stiamo facendo dei lavori molto particolari di condotte, sono molto più a contatto con l'impianto, capito? E quindi tu sai perché eccetera, e quindi il sistema è quello, la protezione ci vuole, ma anche è stato anche fatto un corso dove appunto ci hanno informato di queste cose, ma molti non lo fanno, io in primis, e sicuramente adesso stanno analizzando, ma vedrai che il 24 un professor Rio mi dirà guarda che è così, così e così, quindi devi stare attento a non ricaderci, perché può essere più pericoloso di adesso, capito? Ma la c'aveva allucinato. La cosa brutta è che questa imbecille della Guardia Medica, una ragazzina, avesse qualche tirocinante, cosa ne so, mi ha detto no, si preoccupi, c'è delle placche, perché mi ha controllato. Delle placche, delle placche, ha un accesso e c'è un abisso, capito? Già l'accesso col pulso, cazzo, se non riuscivo a respirare, a fare. Mia figlia le placche le ha avute, mi ha detto papà è impossibile, queste siano placche, perché io respiravo bene, sì, decruttivo, mi faceva male, ma io non potevo manco bere. Io se andavo a bere affogavo, perché c'era la gola chiusa da questo malloppo già, capito? Perciò, infatti fortunatamente il mio medico mi ha detto la pura verità, capito? Vabbè, comunque adesso aspettiamo, prenderò le cose, le precauzioni giuste al lavoro, perché bisogna stare molto attenti. Ognuno il suo, però bisogna stare molto attenti, perché i batteri che ci sono nei posti lavorativi possono essere tanti e anche molto pericolosi. L'unico batterio che non è pericoloso è quello di Marco, perché sta sotto le coperte a grattarsi le balle. Eia, eia, no vabbè, io lo faccio per stare al caldo per questa piccola, così tiene veruta, non voglio pigliare influenze, capito, non voglio rischiare. Ma qui c'era anche Gianfranco, Natalino, in realtà non eravamo in tre. Ci siete ancora Gianfranco, Natalino? Gianfranco è impegnato, l'ha detto, Natalino mi pare che sia il PMR parlando con la banda del gobbo. come quel film, con Milian lì, la banda del gobbo. Domani, domenica, la nuova dice bel tempo, ma a questo punto non so se fidarmi, perché oggi diceva che non sarebbe piovuto, invece ha piovuto. Vabbè, io tanto a casa me ne devo stare, a casa me ne devo stare, e sono felice, bello, servito, riverito. Anch'io, no? Sto uscendo la mattina alle 8:30, alle 9, vado a fare colazione, così un caffè, poi niente, come rientro a casa, porto il cane, e poi dalle 10 a mezzogiorno rimango a casa, e poi riesco verso mezzogiorno e 10, mezzogiorno e 4, vado a fare la puntura, poi rientro, pranzo, buon, finita la serata, e tanto di sera, inizio a casa dalle 5 alle 7, io mi riposo, e poi sono sempre qua in radio, perciò cosa, non serve a niente. Resto solo quella mezz'oretta, quell'oretta la mattina, e lì la rottura di scatole, capito? Avanti già. Ma che ore sono? Le 7 quasi e 20. Devo andare a mangiare la pizza che devo preparare. Devi andare? A mangiare la pizza. No, beh, sono 7 e 20. Secondo che ora vai, ti conviene andare a prepararti. No, no, no, io stanotte ciò che vado. Ma devo portare prima a fare da mangiare a casa, portarlo giù, capito? E il tempo passa. Infatti, io via Tomeo, Marco, sono cose che porta mia figlia, sempre a sopra le 8, di chiusura, io ho arrivato alle 1:30 a casa. Vediamo se avanza qualcosa stanotte da portare per domani a pranzo. Oggi cerca di nascondere un po' di polpette, che quanto sono buone. Eia. Sì, il kebab si è fatto bene, è buono. A me piace, dai, con quelle due salse, una piccante e una allo yogurt, buono, buono. Se le mangiate i kebab ci facevamo con mamma da città mercato. No, questo è buono, buono, già condito. salsina. Stanotte vediamo una sussetta, ho messo già a fare le bruschettine. Io non sai mai cosa fare, andiamo lì, ci prendiamo la pizza, non la voglio pizza, una balla piena questa pizza, a pranzo abbiamo mangiato due piatti di lenticchie con i cavoli, figurati. Peccato che ho perso il me, la migliore pizza del mondo ormai l'ho persa. Domani cosa faccio da mangiare? Passa al forno e praticamente ho comprato le costolette del maiale, però che c'hanno un bel po' di carne attaccata, le faccio al forno con lo sbarino, me lo metto sopra, un po' di sale e sono proprio, escono croccanti, buonissimi. Sì, quelle costine di maiale sono, o di agnello. Di maiale, che c'è più carne, c'è anche un po' di carne attaccata. Ti ho preso da lui, che sono belle. Sì, ci le prende anche mia moglie, sì. Prende anche Anna, già. E puoi fare come vuoi. Sì, sono buone, sì. Rosmarino, sopra. Ma ne metti anche due patate. Già va bene. No, sono sempre le stesse cose, non si è mai usato a mangiare. Una rottura, poi guarda, questi giorni non potevo manco, adesso un po' sto mangiando, ma non potevo manco ingoiare. E quindi roba fredda, mi ho mangiato due vaschette di gelato al limone in questi giorni. Uff, che rottura. Ciao, da Bebuglia. Che sacrificio. Che sacrificio. Ciao Massi, ho visto la chiamata stamattina ma non potevo rispondere. Sei preoccupato, se non mi ha risposto vuol dire che non potevi rispondermi, lavoro. No, è negativo, ero impegnato a casa cambiandomi lo scaldabagno. Bucarci. E allora, come tenere il vario? Avrei preso. La bricco, Io l'ho preso io, ma hai preso quello free, quello come si chiama? Aiutami, quello combo. Quello bravo. Quello lì sì. Funzionano bene. E sono buoni quelli. Vabbè. Cappa Roggero. Dai, saluto a tutti, ho sentito. A te a Gianni, poi non so chi c'è altro ancora. Ma sì, quanto le facciamo, Vicente? Quanto è che l'hai pagato lo scaldabagno? Beh. Allora, io l'ho preso da 80 litri. Allora, ci sono quelli da 85 euro. Però 50 litri quello lì. Poi c'è 89 euro da 80 litri con 2 anni di garanzia. Poi ci sono da 117 euro, però c'ha 5 anni di garanzia. Io ho speso 240 euro per lo scaldabagno, ho messo quello Ariston. Perché cazzo le staffe, abbiamo provato due scaldabagni e le staffe non andavano bene. Ho dovuto mettere per portare quello Ariston elettronico. No, io ho preso quello da 117, così per 5 anni sono a posto. Qualunque cosa succeda, si buchi, si brucia, truciamoli. Sì, Massimiliano, guarda quello che c'ho io. Già, guarda quello da Bramo, è favoloso. Quello lì, quello da 117. Va bene, Massimiliano. Ma non mi hai capito, no, caro Cla. Gli attacchi delle staffe sono diversi. Io ho quelle per le staffe, me le hanno curate. E quando le hanno curate le hanno preso le misure per quello Ariston. E quindi ci staffa dell'Ariston, è all'altezza delle staffe dell'Ariston. Ma le bagno? Tocca sopra, capito? E io già, gli ci vuole poco, sì. Attacchi la moneta, me le tagli con le due staffe. E ti compri due tasselli, costano 3 euro l'uno per il scaldabagno e lo ciambi. Ecco, non c'è vero, ma le cose dei tasselli mi avevano fatto un lavoro una volta, proprio che non mi ricaggio lo scaldabagno in atto. Quando io ho preso la casa c'erano già tassellate cose. Avevano messo lo scaldabagno, ero bussato per dei bisogni, a un certo punto ho chiamato a mia moglie perché se no me ne stava cadendo lo scaldabagno addosso. Mi ha stracciato il muro che separa dalla cucina dopo il servizio, immagina. E sicuramente quel muro che te lo separa è a forattini, giusto? E allora, infatti poi l'ho messo murato, capito? L'ho messo murato. Positivo. Dai, sono entrato a salutarvi che sto uscendo, ma non rientro tardi, rientro subito. Se ci siete dopo rientro in radio, se no ritenetevi salutati. Claudia, ma mi dovevi dire qualcosa di particolare, ti chiamo? No, non c'è. c'è nessun problema, Massimi. Sento domani domenica, se ci prendevamo un caffettino. Se vuoi scendere, noi siamo lì. Verso le 9:15 siamo lì. Da cosa? San Giovanni? Da Passà. Va bene, dai. Allora scendo lì. Scendo lì verso quell'ora, dai. Va bene, così poi dopo salgo e porto il cane. Va bene, dai, vai a fare come sta facendo, sentiamo dopo, intanto sono le 7:25. Io dopo vado a portare a Pippo, visto che non sta piovendo. Avanti, già, che mi sembra che cosa ha detto che stava andando in bagno? No, ma io stavo per andare, Claudio, sto per mettermi i pantaloni e uscire, che è già ora. Così porto Tyson, già dopo pranzo, quando sono arrivato, verso le 2:30 stava piovendo. E l'ho portata solo sotto gli alberi a fare i bisogni, ma già ne ha fatti tutti, e non è che ha fatto lo stesso, però non potevamo né passeggiare né nulla, perché quella lì stava piovendo a dirotto, quindi non faceva. No, infatti non fa, adesso non sta piovendo più. Tra l'altro ho visto che anche asciutto, ho sorbito bene qua al terreno del piazzale, faccio fare un girettino, ho salito una discesa e poi l'ho finita. Quindi domani mattina lo porto presto, poi me ne scendo giù a prendere un caffè. Dai già, buona passeggiata, buon tutto, vai tranquillo, aspetto Marco, poi andrò a portare il cane, dai. Ok, ci sentiamo, fatti sentire, stai sereno, tranquillo, dai le tue ragioni, le tue motivazioni, vedrai che le cose si mettono a posto. Farò così, sì. No, ma già aspetto, dai, che rientri Marco, scendo quando Marco rientra, dai, così almeno ti faccio compagnia, sì, quando rientra lui. Io ho dato a pignare, non c'è sceso nell'accesso, capito? Con tutta quella roba che si mangia, non si è appeso al water. Ci deve essere attaccato al muro. È pericoloso, perché si attacca al muro, gira l'ala e ti ricuri la sciringata. Ma sai che, vabbè, sai che portando il cane conosci ragazze e cose. Ho conosciuto questa ragazza, un giorno stavamo parlando, gli ho detto, lo sai che c'è uno in frequenza che lo chiamano Rata Pignana. Poi l'altro giorno Marco è venuto a casa, siamo scesi con il cane, perché a quell'ora lì in testa dove scende stava pronto là, siamo scesi insieme a Marco prima di uscire. E abbiamo trovato questa ragazza e ha detto, guarda, ti presento Rata Pignana. Dice, è lui, No, tuo pipistrello di Sassarese. Ha detto che lei ha tanti amici alpinisti, ma non aveva mai sentita questa parola. Una parola storica, la Rata Pignana. Cosa è nata lì? E allora, in algherese, la Rata Pignana. La tua ratteta è Rata Pignana, sempre ratta, perché il topo si chiama Rattù, capito? Quindi il pipistrello Rata Pignana, topo volante, vuol dire cosa? Chi era già? Oh, ho sentito la parola metà, ho capito chi era, è anche lontana, non era qua. Chi era Natalì? Chi è? C'è qualcuno d'Alghero? Se non era Giuseppe. No, non era Giuseppe, arriva più forte Giuseppe, era un segnalino questo. Capito già, quindi topo volante vuol dire, niente di particolare. Lo so, ma l'algherese è particolare, è una lingua particolare, un dialetto particolare, dai. Assomiglia al catalano. Hanno delle parole strane, mamma me ne diceva, perché mamma è stata tanti anni almeno, era lì, capito, in collegio, e si facevano le nuotate sino a Cosa, perché se facevano le nuotate dalla spiaggia sino ad arrivare alla Maddalena. Ah, sì. Ho capito. Vediamo se c'è qualcuno avanti. Sentivo un fischio sotto di te. Però se non vuole entrare, è inutile che parli sotto di Gianni, perché può parlare sopra, ma sotto non puoi parlare. Marco. Rata Pignana, prima ha mangiato, poi si è addormentato. Prima ha mangiato, e avanti a fare dell'uomo. sto guardando il bagno. Ah già, vai che si fa tardi, sono già 8:25, vai, prepara, non ti preoccupare, già sono qua io. Cazzo, ragazzi, sta così bene a calduccio, io sono a letto, mi sono a letto con la coperta sopra, a calduccio, mi sono tutto lavato prima che mi sono a letto. Beh, normale, ma se stai lì che devi uscire, sono già a meno 25 per preparare il cane, fare tutto, vai tranquillo, io sono qua, tanto adesso mi preparo anch'io. Scendo a portare il cane, poi Marco già lo sa, se non le rispondo vuol dire solo a portare il cane, cioè c'è Natalino in ascolto. Io sono qua, vi sto bioccando. Amico, cosa ti ho detto? Non sei, boh, hai detto stavi andando in bagno, che tutti siete sgromenti. Sì, sono andato anche in bagno, però poi, non so, ma così così mi sento, dai. Che sia infreddatura, che sia influenza, insomma, non sono proprio al massimo. Poi sono stordito di testa perché sono stato tutto il giorno praticamente fino alle 5 a dormire. Un po' mi svegliavo, un po' mi giravo dall'altra parte, un po' dormivo, ma alla fine sono stato tutto il giorno a dormire. E quindi ho la testa vuota. Vabbè. Vai già, vai, riprendi. Ciao Marco, ciao Claudio, ciao anche a Natalino e tutti gli altri amici che sono in ascolto. Io faccio correnti, vado a Porto Giuntaio e poi ando a passeggio. Ciao Marco, stasera sono in tournée. Ehi, ciao Gianni, dai. Ciao Gianni, ci sentiamo o dopo domani, dai. Io non sono molto brillante, dai. Anche Claudio sta andando a portare il cane. Sto andando a portare il cane anche lui, non so se sta andando adesso. Ehi, 5 minuti Marco, dai, 5 minuti, ce l'ho portato presto la mattina. L'ho portato presto perché la mattina voglio uscire anch'io, se no dopo stare insieme alle 10 e aspettare all'usci. Ciao già, buona passeggiata, buon tutto, ci aggiorniamo, dai. Buon fine settimana. Natalino, vuoi riprendere? Cosa hai detto? Marco, Natalino, non ho sentito. Che non gli piace parlare con quell'antenna, perché può sovrandulare senza volere, perché non li sente, capito? Ma è già 2 mesi che mi ha detto, dobbiamo mettere l'antenna. La bazooka io le avevo dato per migliorare, ma i due sono passati 2 mesi, ancora è così. Marco, devi capire che Natalino si è sempre fatto tutto da solo. Non ha mai avuto bisogno di nessuna campagna, capito? Anche bei lavori ha sempre fatto. Lì purtroppo c'è il problema che ha bisogno della mano, ha bisogno dell'attrezzatura necessaria. Quindi, evidentemente l'amico suo è impegnato, non lo può aiutare. Ehi, poi ci voleva quella scala di 9 metri, mi pare. Cazzo di scala. Così è nata lì. Ho capito, ho capito. Scusa, ma di là sempre quell'altro piccolino, quello tuo, quello c'è in affitto, sempre gente c'è lì, in quella dell'altra parte, è sotto? Natalino, abbigliare il gomito devo chiamare, come ti dici tu, vabbè, pazienza, se serve a loro, siamo lì a favoroso, cazzo. Gli vecchi venti, poi c'è un sacco di posto lì per montare antenne, per fare esperimenti, ma poi con i subiti inviati. Vabbè, comunque lì avevo un po' di pazienza, pensi dell'amico tuo sicuramente già. Ti dà una mano e la mettete questa antenna. Che te devo dire. Va bene, ma confondo, vieni te, fai te o camomilla. Ripeto, quella roba là, semmai poi ci sentiamo al telefono. Se la vuoi dare, io ci metto poco a mettermi in moto, capito? Ci metto poco. Dai, vado a prepararmi 5 minuti, riprendo subito. Ok, sono qua. Eia, non te ne andare, non mi lasciare, non mi abbandonare. Ah, parla 10 minuti con Natalino e faccio fare la pipì qua sotto, sto salendo. Eia. Oh, il Natalino è sempre troppo forte di radio, però sentono vedi voci di fondo, se può abbassarsi appena appena sarebbe meglio. Sì, è già meglio, perché quando le voci troppo è come se io parlassi così attaccato al microfono mi e poi è un casino, capito? Adesso è già migliore. Eia, qual è il Lincoln quello? Eia. cercando di rimanere più al caldo possibile, anche se i pantaloni sono un po' leggeri per la temperatura che c'è, ma non c'è nemmeno freddo gelo, no? E poi mi metto, quando è l'ora del film, mi copro ben bene e mi guardo qualche film stanotte, non so cosa ci sia. E vabbè, dai. Sì, sono un po', quando dopo che mangio mi viene la biocco, magari un po' in ritardo, ma mi viene. Trattieniti, dai, sto salendo subito. Un attimino, comunque freddo non ce n'è, perché io sono uscito poco fa, sono andato a vedere lo spin, e freddo non ce n'è, Marco, quindi sicuramente, non so. Natali, mi ricordo, caspita, 30 anni fa, la pasticceria che avevi, come che si chiamava, la bottega del dolce, in quella via delle casette in Canada, già ne è passato di tempo da allora, mamma mia, prima eri più giovane d'aspetto, ti ricordi quella volta che in quel bar, col portatile VHF, ho fatto finta di chiamare l'executive e ho premuto il monitor per fare il rumore dello stacco della portante. E avevo dato nome e cognome, attenzione, da Natalino, dalle tali, e poi ho premuto il monitor e ho detto, cazzo, adesso vengono a cercarmi, delinquente. E era bello mica l'apparato, era un Kenpro con tastiera, display, cristalli liquidi, che il gatto si sta lamentando, adesso si sta sognando, è un Kenpro che faceva 140-180 megas, e la croce blu, se te lo ricordi, all'epoca era 172-775, ma credo che ormai abbia cambiato anche apparati. Sì, anche quelli ho avuto il Contravers, ho avuto l'IC02, che però era solo amatoriale, e il più bello era quello là, Kenpro, infatti, se era Kenpro, e non mi ricordo bene se il nome era quello. Ed era l'unico che, anziché 170 MHz, arrivava quasi ai 180. C'era il selettore per le bande, tastiera, cristalli liquidi, era un bel apparato quello. Chissà che fine ha fatto. Oh, era appena uscita la VHF, così è. E l'hai chiamato, dice, ah, chiudo tutto. Spero che, aspetta. Non riesco a bloccare il tasto, ecco. Ascolta, bene o male, le UHF quando sono uscite? Anni 80? Inizio o fine anni 80? Bei tempi era. Caspita. Poi c'era qualcuno che aveva l'Intec veicolare a Contravers. Chi eri tu? E poi c'era quel pazzo, c'era quello bassino, come si chiamava? Che aveva la resetta 1, come si chiamava? Mi ricordavo il nome prima, se non me lo ricordo. Ehi, Corazzuzza, cazzo, col portatile entrava lì all'executive 500 da macchina 1, cosa era? Eccolo avanti, tutto a posto. Poi entrava la macchina vera e diceva, io non ho chiamato, c'è qualcuno che fa interferenza, un pazzo era. Chi? Non ho capito. No, non ti capisco, Natali, sei confuso di voce a momenti. No. Poi c'era anche il ponte delle guardie carcerarie in alto, mi pare 168-170. Adesso non esiste manco più quello, adesso erano tutti in digitale. Ehi, adesso, diciamo, quali anni fa c'erano i tassisti sui 43 MHz, no? Però adesso dice che non c'è più quasi movimento, o hanno venduto le radio. Lo sai, prima c'erano chiamate continuamente dalla base alle macchine, adesso è un mortuorio anche lì. poi non vendono più radio, 9 non ne trovi più, sia le radio, le antenne veicolari delle 43 MHz non trovi più niente, è come se avesse fallito da poco la banda, cioè è nata morta, amico, la banda lì, perché nessuno se ne, solo i tassisti mi pare siano andati, forse qualche ambulanza, o poi l'hanno abbandonata tutti, solo che hanno preferito passare in VHF secondo me, magari in digitale. Eia, 118 è in chiaro, almeno era in chiaro. Oh, non riesco, aspetta un attimino, sta lì, che c'è qualcosa, non riprendere. Ecco, no, già riesco a bloccare il tasto, è che ho un po' le mani impedite adesso che ho i guanti. Ecco. Sì, c'è l'uscita a ponte 104,60 spiccioli, non posso dire la frequenza giusta. E ingresso a ponte 4,50 spiccioli. Capito? Sempre che sia ancora quella. Però rispetto a una volta, ti ricordi, negli anni 80 c'era di tutto e di più. Era in VHF, era tutto pieno, tranvieri, l'Enel c'era, te lo ricordi l'Enel, che usavano i toni di TMF per accedere, c'era di tutto e di più, l'Executive, tante altre cose che adesso non me le ricordo nemmeno, adesso è deserto mi. Sì, in realtà sembra vuoto adesso, ma in realtà non lo è affatto, magari ci sono emissioni digitali che noi non possiamo sentire assolutamente. Chi è che ha detto la Tappignara? Avanti. Eugenio, sei tu? No, ho sentito la Tappignara, mi è sembrato. Eia. E c'era più ascolto da fare. Tutto c'era da ascoltare, tutto in chiaro. Adesso è uno schifo, infatti gli scanner non li venderanno più perché a malapena ascolti i radioamatori, però molti radioamatori stanno passando anche al digitale, capito, in FM. Fonia in digitale, capito, quindi non ne vale più la pena di comprare scanner, assolutamente no. E c'è uno scanner, costa 1500 euro mi pare, se non di più. Però ricordati, prende le cose digitali in chiaro, ma se tu metti una modifica, chi trasmette mette una codifica, non lo sentirai mai, capito? E se la sono studiata bene, dai. No, quando vogliono hanno uno scrambler, o come si chiama. E sì, no, non è uno scrambler, è proprio una cifratura sull'audio, capito? È un casino le selettive, io l'ho avuto, ho portato le bibanda con le selettive, ma non me ne facevo niente, erano difficili da gestire, devi sapere se ne hai due di apparati cosa mettere, ma poi è un casino, no? È roba per uso civile, non ne vale la pena, per carità, non ne vale la pena. Il PMR sta così bene, tranquilli, in chiaro, altro che selettive. Ascolta, ma tu sei mai entrato in bande basse? Bande basse intorno sotto i 40 metri? Io sono per prova dalla macchina, appena chiamato hanno risposto, dalla macchina, però non ho continuato perché non si dovrebbe, era proprio per vedere se rispondevano. Mi ricordo che esisteva un'antenna Sigma a tre radiali, no, quattro d'onda a tre radiali, che faceva sia 27 MHz sia 45 MHz, non so se te la ricordi, aveva la bobina per i 45 metri, 88? Minchia, e lì ci vogliono antenne abbastanza performanti, però, se no rende poco. Credo che i 45 siano perfetti, solo che ovviamente no, non è una banda fruibile, troppi casini, no, non ne vale la pena, almeno per quanto riguarda me. Eia, anche Pomponio ha trattato poco poco i 45, ma appena, ha fatto due o tre modulazioni di sera, poi mi hanno fatto storie anche 27, e allora ha lasciato. E troppe orecchie all'ascolto ci sono, capito? Sia buone che cattive. Eia. Poi avevo sentito che c'erano pirati anche sui 22-23 metri. Se mi fai a dire la frequenza non la so, ma grosso modo erano, fammi pensare, 20 metri sono 14 megahertz, sui 13 e mezzo, 13 e qualcosa, dai, non lo so esattamente, io non li ho mai sentiti. E poi bisogna avere la stessa polarizzazione natalizia, no? C'è una perdita di 20 dB, mi pare. Se uno usa una verticale e l'altro usa la direttiva orizzontale, si perdono almeno 20 dB, proprio per la differenza di polarizzazione. Beh, ma era ci ho messo. No, no, no, già stavamo parlando di frequenze proibite. Stavo notando come i tassisti stiano gradualmente abbandonando anche la 43 MHz, dove prima c'era protezione civile, ambulanze, tutti hanno abbandonato tutto. Gli apparati non vengono più prodotti, le antenne non vengono più prodotte, insomma è una banda nata morta, è durata pochi anni e poi è finita male. Ma io sono sempre in contatto con Antonio Masia su WhatsApp. Praticamente, vabbè, lui è andato in pensione, il suo posto l'ha preso il figlio Alessandro, e c'hanno il sistema radio taxi, capito? Ah, Antonio che era CB anche? Sì, Antonio Ressi, R20. Eia, però per esempio, mentre prima, qualche anno fa sentivi un bel chiamate, una dietro l'altra, adesso ne senti ben poche, cioè rimani a ascoltare un bel po' e ne senti poche le chiamate. O stanno passando ad altre radio, tipo Vogue Digitale, non lo so, non lo so. E io. E rimarrà vuota quella banda, se la abbigliamo noi. E se lui c'è più. No, lascia perdere lui. Assolutamente, tanto guarda, si inizia con delle stronzate e poi si arriva, come si è sempre fatto e come si sta continuando a fare, a non rispettare le norme, le leggi, eccetera, eccetera, poi alla fine, capito, succede casino, perché anche lì prima o poi vedrai, in giro succede casino, vedrai cosa succede, però io ne sono fuori, quindi non posso dare la colpa a me, si arrangia. Con tutte queste modifiche ciullallina. Va bene. No, questo vicino Antonio mi ha detto che praticamente usano il radiotaxi, però non so come lo usano, se come lo usavamo prima o c'è qualche altro sistema digitale, non lo so, non lo so, però mi ha detto che lavorano così, lui oramai è andato in pensione, la macchina, una bellissima macchina della Toyota ibrida, nuova nuova, che sta usando il figlio, lui è andato in pensione, già da un po'. E niente, ogni tanto ci mandiamo qualche messaggio su WhatsApp, la siamo in contatto così. Eia, eia. Ci manca solo quella di frequenza, mamma mia. Bisogna tenersi stelle strette quelle autorizzate. Manca il PMR per dirmi. Cioè, per cose brevi è comoda. Quando andiamo ad Ocean con mamma, per non stare sempre a telefonare, comporre il numero e dire dove sei adesso, sono alle casse, sono al reparto centrale. Chiamiamo col PMR, però il PMR è proprio omologato, c'ha 500 mW. Erano quelli della GBC, dei giocattolini argentati. E vanno bene, capito? Ti senti subito, dice guarda che sono zona frutta, ortofrutta. E allora ci raggiungiamo, la raggiungo così, capito? Queste cose sono utili, per ci stare sempre a sprecare bolletta telefonica, capito? E vabbè, poi... Vabbè, le potenze purtroppo... Io le prove le ho fatte, ho visto che funziona, però... Ma, rotto? No. Le prove le ho fatte, insomma, finisce lì. Ogni tanto si può entrare a salutare, ma non... Cioè, anch'io temo che possa succedere prima o poi qualcosa, sai. Pulce nell'orecchio, già lo sai poi come va a finire, no? Ci passano tutti. Ma infatti io già da tempo me ne sono fatto fuori. Quindi non mi interessa neanche affrontare il discorso, ma lo sapete, prima o poi anche lì come è successo alla Pappate, con le tronfate delle modifiche e delle cose che si stanno facendo e che si usano soprattutto, ma poi anche lì succede così. E poi l'importante è che non sia in mezzo, io sono fuori e perciò qua sono io, non sento, non vedo, non parlo, capito? Quindi non me la fotti proprio niente. Cosa ti sto dicendo? No, ma non sta più piovere. Ma perché pensi che domani sia una bella giornata? Allora, il meteo della Nuova ha messo sole, però anche oggi non era prevista la pioggia, c'erano solo un po' di nuvolette, invece ha piovuto come vedi, quindi domani non so se fidarmi. Vabbè, io tanto non devo uscire, io devo starmene bello al caldo, non devo uscire, capito? Quindi che piova o che faccia bello, a me. Questo, per il PMR, tanto ti mettono in mezzo lo stesso, cominciano a dire è colpa di Claudio che ha fatto la spia, è sempre colpa di Claudio. Intanto tutti i cigaroni che vi so, se aspettassero, oramai, non poco garoni che, per carità. E te, è poco. Ingresso o uscita a ponte? Uscita non aperta ce l'ho io. Ma parlano lì, sia ingresso che uscita. Capite? È quella che mi aveva dato mascherato. Eia, che strano, ma avrei giurato. No, evidentemente hanno problemi sotto, capito? Quindi sono saliti molto in alto, sono a livello dei è molto vicino al PMR, quindi attenzione, molto vicina, molto vicina, no, ma lì quando ci sono incidenti, queste cose non seguo molto, io ho capito, vedi, l'ho seguito, io ti ho mandato quei centri di scala di shock. Quello della grotta. Allora, ho preso la galleria in pieno, sì, è vero, su non ci sono, giù, questo è Quarremme, giù non ci sono, non ci sono, è vero, almeno io non li sento, però l'antenna non è adatta, questa monobanda UHF magari è per quello, ma non riesco a sbloccare il mic, aspetta. Infatti sono in UHF, se tu stai ascoltando sotto in V, non stiamo trasmettendo, li stanno salendo, sono saliti un po' più sotto del PMR, so. Capito? Un po' più sotto del PMR, no? Già saremo partiti. Andiamo a mettergli la portante. Non credo, no? Lì c'era un tono d'ingresso sulla selettiva. Poi ci sono vicino, quindi arrivi a manettone. Figurati che se vado a mettere la portante, ci mancherebbe. Sì, sui 4-4, insomma lì ci sono alcuni ripetitori, infatti bisogna stare attenti. 2 MHz di differenza, dai, poco più. L'importante non si lamentino per splatter così armoniche. Non riesco a levare con i guanti il blocco. Problemi loro sono, ti ho detto. Io non ci metto più lingua. Sono espresso anche troppe volte. E poi venivo a tre papetti, si miserabili. Uno in particolare, comunque sì, sono molto vicini al PMR, si consideri che il finale è quasi 5, dobbiamo stare molto attenti, che basta un niente che li disturbi e si è fregato, cazzo di timone di vento, quelle sono frequenze ministeriali, quindi va bene. Avevi venduto tu l'857 Natali, no? Aspetta, Natali, ma perché avevi venduto tutto? Vabbè. Insomma. Anch'io ho fatto il passo più grande della gamba, ma io dell'857 me ne faccio un baffo. Poi non me ne frega niente pigliare la cosa del radiatore, ci devi occupare. pensate che è troppo appresso, nominativo, il lobby, no, no. Me ne sceso proprio, preferisco la 27. Non devi essere troppo posato, CCC, scrivere nominativi. Nomina futtinudini. Nomina futtinuta, un po' deciso, non mi interessa. No, non ci vai più, ma guarda l'esame. No, no, proprio me ne scesa. Vabbè, adesso sono demotivato perché non mi sento così così, dai. No, non vale la pena, il log, il coso. Devi segnare tutto. No, non mi interessa più. È una rogna, dai. Mi devo azzuffare per mettere antenne nuove. Non ne vale la pena, dai. Proprio non ha giugana. Né di fare attività. A me piace il baracchino, c'è poco da fare. Mi piace il baracchino. Lì devi stare tutto posato, devi stare attento a quello che dici, a quello che fai. Non ti inanni. Io infatti, sto aspettando con ansia, a una persona al vago, io, a un vostro vedoci, tormento totale, ci insegni un po' di educazione. Oh, io, che ore sono? Vediamo. Le 8 e 5 e quasi 10, vabbè da, ancora è presto per il film. Ma perché questo, c'ho le mani io folle, ah ecco il blocco tasto, sì, senza guanti riesco a metterla a toglierla, ma con i guanti non puoi fare nulla, con i guanti in paio ti scivola il tasto. E domani accenderò, cosa posso provare, boh, non lo so. Potrei mettere quello che ho dato a Gianni a vedere le differenze con la mia modulazione prima di buttarlo nel cassonetto, oppure dargli una scaldatina all'857, modulare un po' in AM, dai, per farlo, è fermo da un po' di tempo, eh. A te c'è quello, io non ho capito perché non lo fai andare un po' in AM, andare un po' in AM, metti da parte qualche baracchino, ti attacchi quello e lo fai andare un po' in AM, tanto andava benissimo, quindi se no te l'ho detto, io ci metto poco a domani sabato, domenica mattina devo andare a trovare una persona, ma parlo subito con lui, mettiamo in mezzo, poi c'è pure che serva a uno del mio gruppo, capito? Così non so, tu devi decidere, tu, quando decidi e sei deciso, io passo, me lo prendo, ma non faccio altro che portarti i quattrini, punto. E andrebbe provato, perché a me questa storia del soffietto, che ho modificato l'impedenza del microfono e fa questo leggero soffio in USB, no? In banda laterale, vorrei capire se è veramente il microfono o se c'è qualcos'altro, perché se c'è qualcos'altro che l'apparecchio non è in ordine perfetto, non si può dare, capito? Magari solo da allineare qualche finale, non lo so, però se lo do deve essere in ordine, a meno che la persona mi dica per allineare il finale ci vogliono 30 euro e io scalo dal prezzo, capito? Non ti preoccupare, stavo leggendo il messaggio. Tutto è possibile, come hai scritto tu, mio Marco, tutto è possibile. Lo sai, oramai, ma va a trovare una figura, chissà chi hai scritto tu. Sarà l'unica volta che vado a Cagliari quando ci sono gli esami. Adesso passiamo a Chini, va bene, cosa stavo dicendo? Cosa c'ha? Non ho capito, si prova, lo proviamo, lo porti qua, io ho tutte le antenne disponibili, antenne che appunto sue, sia per le V, perché le sapevo fare, io ti ho sentito, in effetti non ne ho.